il domani che verrà. È una porta che tu chiudi fra me e te. Se stasera ti decidi a rispondermi di sì, i domani che verranno li dedico solo a te. Meglio stasera che domani, oh mai, domani chi lo sa quel che sarà. Nasce il giorno muore e la notte porterà l'incertezza del domani. Chissà, basta un desiderio solo a non farti riposare e una pulce sul lenzuolo che dormire non ti fa. Meglio stasera che domani, oh mai, domani chi lo sa quel che sarà. Stasera che domani, oh mai, domani.